no, che la parte sia minore del tutto, è dato per scontato che sono sempre lì a provarlo, no? Essere onesti in campo, Galileo insegna, no? E oggi mi pare che l'insegnamento ufficiale della Chiesa sia su questa linea, l'autonomia della scienza, l'autonomia delle varie scienze, anche tutta questa discussione che si fa in quello che può fare la scienza e che la religione che può, certe fedi non vorrebbero, e beh, è giusta e doverosa, perché? Perché c'è la scienza che tratta le cose in un modo, c'è la religione che si sforza, la fede che si sforza di interpretarla a un livello di fede, è giusta e doverosa, però deve essere fatta con serenità, deve essere fatta rispettando le competenze degli uni e degli altri, dialogando, e questo avviene, oggi avviene molto, ripeto, con la discussione lì, presentate così con serenità, calma, partendo da un libro che uno ha scritto, con l'autore lì, e lo spiega, e si discute, no? In termini opposti, il non credente e il credente. Ma quando mai è avvenuto nella storia questo? Non è vero che tutto va male, è vero che c'è dialogo, e proprio perché qualcuno non vuole il dialogo, aumenta il bisogno del dialogo. Molto, è molto educativo questo dialogare anche in termini così, partendo da punti di vista sempre così tranquillo, ma direi che soprattutto in politica rischio, ma a livello così è molto, molto bello, molto come dire, confortevole, il solo fatto che si possa trattare. Tanto non registrare, sono stupidaggini. Ogni tanto quello che dice ci mette in crisi e ci fa dire, ma caspita, fino a ieri. Io non mi porrei il problema di cosa ho pensato, di come riflettevo fino a ieri. Ma se quello che dici per me è bello, bellissimo, e risponde a ciò che sta scritto qui, io cancello quello che fino a ieri. Cerco di cancellare, no? Anche a volte fai fatica, però non mi starei a pormi problemi, ma ieri era così, adesso è così. Anzi, ringraziare che certo. Ieri abbiamo visto male, perché oggi, grazie all'oscurità di ieri, possiamo... Senza andare in crisi, senza pormi tante domande. Senza fare dei però le cose inculcate da giovani è mica poi tanto facile. Certo. Ma insistete su questa idea che la conversione in senso biblico non è che altra cosa. E cambiare mentalità. In greco si dice metanoia nous, è la mente, cambiare mente, cambiare modo di vedere le cose, ed è quello che ha tentato di fare Gesù, provocare un cambiamento di mentalità, non più quella secondo Mosè, secondo l'Antico Testamento, ma una nuova, no? Questa è la vera conversione, non è voltare l'altare dall'altra parte e dire un rosario in più che non si diceva, quelle sono se non date il senso più profondo a quelle cose. No? O fare penitenza perché prima non la facevate. Non è quella la conversione. La conversione è cambiare mentalità, accettare di avere delle idee nuove, anche se mandano a monte quelle di prima, verificato che mi sembrano migliori di quello di prima. Sì, invece continuate a rimanere convinti che quelle vecchie sono migliori, allora avete il dovere di coscienza di stare a quelle vecchie. Ma se gustate la novità, se vedete che la novità vi porta in positivo, vi costruisce per la gioia, per la vita, allora questo è segno che viene da Dio, questo è segno, è un segno del regno. E allora anche con sacrificio, perché è pesante per una persona di una certa età smontare tutto un castello in cui ha abitato per tanto tempo e doversi di nuovo ricostruire tutto. Però la novità è sempre bella, fare qualcosa di nuovo è sempre bello. La vita è movimento. Pensioni, no? Questo era soprattutto questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa. Che arrivare col tempo a scoprire l'amore totale di Dio ti fa persino, ti fa dire, ma mi sembra persino troppo bello poter pensare a Dio in termini di amore, mai solamente di giudice. Per cui abbiamo avuto qualche volta nel nostro delle discussioni in questo senso. E sì, ma è troppo facile pensare. Mica è vero che è facile. L'amore è la cosa più difficile che ci sia. Lo so. È l'esigenza più forte che c'è. Mica facile vivere insieme, innamorate per tutta una vita. No? E allora, è molto più semplice vivere da separati. No? Senza adesso andare a ficcarci nelle questioni per cui ci si separa o no, per carità, ma l'esigenza dell'amore, la suprema esigenza, è molto più esigente l'amore di una legge. La gente la legge l'ha osservata all'esterno e siete perfetti. L'amore implica il cuore, implica la vita dentro. Insomma. Poi amare e condividere. Quindi condividere non è facile, a tutti i livelli, diciamo, economici, di tempo. Quindi no, sì, sempre. Però da una certa... Perché, e adesso ti faccio una domanda, perché quando uno prega, parli col Signore, riesci a pensare diverse cose, quando parli con un'altra persona pensi solo quello? Noi in casa, per esempio con mia moglie, non 365, ma 360 giorni all'anno diciamo le preghiere assieme, diciamo il Santo Rosario. Perché io me ne accorgo che anche lei, che si chiama Maria, Santa Maria, va così. E lo faccio anch'io. Come mai quella cosa? Ma probabilmente perché non è una preghiera che dica tanto. Perché io c'ho un amico che se è un bravo, una preghiera che, per la quale sei divagato. È una preghiera, ma poi anche rifletterci un momento su e dire che cosa ne fa Dio del mio rosario o Maria del mio rosario. Poi se vuoi dirlo, vuoi dirlo con attenzione, ha certamente un valore, per carità, lo sforzo stesso, il fatto stesso di far fronte alla divagazione, di dirlo con la voglia, è positivo, ma è più positivo per te che eserciti la volontà che per Maria. Dite che Maria sarà stanca di sentire tutto sto corteo di Ave Maria da tutte le parti. E poi come chi allora va a accendere, quando conviene qualcosa che poi non sappiamo che c'è ancora comandato, va a accendere la candela, ma la luce di Santa ne ha già fatto. Allora vedete, che sono cose, gesti, segni, che possono dire qualcosa a noi, se diamo il valore a questo segno. Però ecco il bisogno di dargli un senso giusto. Se no diventano anche devianti, ma non dobbiamo pensare che tutto questo dia gloria a Dio, serva a Dio, perché Dio non ha bisogno. Agostino, l'avevamo letto mi pare una volta, una delle l'abbiamo fatto sacerdozio, no? Abbiamo letto di Agostino che diceva: sarete mica così ingenui da pensare che la sorgente riceve vantaggio per il fatto che fa luce. Siamo noi che siamo avvantaggiati dalla luce della sorgente, e godendo di questa luce noi non diamo niente alla sorgente. Se la sorgente potesse avere occhi per capire, capirebbe che, ecco, accettiamo, accogliamo con riconoscenza il dono che ci fa, ma il nostro ricevere la luce, il nostro bere alla sorgente, non dà alcun vantaggio alla sorgente. Il nostro rapportarci alla sorgente, la sorgente è gratuita, la luce è gratuita, e poi la pagate anche con la bolletta dell'elio. È assurdo, potremmo pensare di modificare Dio con il nostro comportamento. Sarebbe un Dio... Perché è un Dio che se ecco, siete in 50 a pregarlo, si commuove. Se siete solo 49, no. Un Dio che se fate celebrare le messe gregoriane, 30 messe che siano di seguito, perché se ne saltate una, salta tutto il piano. O un Dio, o un cuore di Gesù che vi assicura chissà quale grazia se fate 9 primi venerdì del mese, che se ne dimenticate uno o lo saltate, dovete rifar tutto o non vi prende più in considerazione. Queste sono le stupidaggini della religione, non è fede. Ancora da noi, come i frati fanno ancora tanti, certo, i frati e le suore e le religioni, e le religioni in genere vivono di questo, perché se voi togliete questo le religioni non hanno più nessun significato, possono chiudere subito baracca curativa e oltre il resto i soldi non girano più, siamo sinceri. Ma chi è andato oltre, chi ha bisogno di questo, lasciateglielo fare. Ma se arrivate a un punto che superate certe cose, entrate nella libertà dei figli di Dio. Ma non perché siete diventati licenziosi, ma perché attraverso la mente, attraverso la considerazione, avete capito anche o immaginato una realtà di fede in termini probabilmente più giusti. Dio, se c'è, non è uno che si può mercanteggiare, che come qualsiasi padre, qualsiasi madre. Se si lascia commuovere dal figlio, il figlio che ecco, gli dà 2 baci, lo prendete maggiormente in considerazione del figlio che ve ne dà solo uno, o che non, o del figlio che non ve ne dà nessuno. Io non so se poi vi sentite a posto in coscienza come genitori. È proprio più facile il contrario. Ecco, e capite benissimo che in una famiglia, pur essendo tutti figli vostri, sono tutti diversi. Uno pensa di farvi piacere a fare una cosa, un altro ne fa un'altra tutta contraria e pensa ugualmente di farvi piacere o non dispiacere, per dire, dai. E non siete così piccoli da star lì, amate tutti, ma semplicemente lo stesso. E Gesù dice, se già riuscite voi, con i limiti che ha l'uomo, a fare questo, figurarsi il Padre. A me sembra molto più liberante, ma perché mi sembra più vero questo, liberante nel senso che è la verità che ci rende liberi. Ecco, non pensate che Gesù abbia cominciato sapendo tutto, o che Maria, perché Luca ci narra l'annunciazione in quel modo, fosse sicura di aver generato il figlio di Dio e quindi non c'erano più problemi. Ecco, Maggi vi ha detto là che io ho sentito le registrazioni, ma ci sono sui suoi libri, leggete i 2 libri dedicati a Maria. Maria è passata dalla maternità dello spirito, del corpo, alla maternità dello spirito, a capire che non bastava generare fisicamente un figlio per essere madre, bisognava nel caso di Gesù accoglierlo nella fede e convertirsi al progetto di Gesù. Ecco, no? Gesù come che lui piano piano si è convertito. Certo, come Gesù cammin facendo si è convertito sempre di più all'amore del Padre, perché l'ha sperimentato meglio, no? E l'ha potuto comunicare fino al dono della sua vita. Ecco, così figurarsi tutti gli altri, Maria e tutti gli altri devono fare un cammino, un tragitto del genere. Questo è molto bello e confortante, anche molto vero, perché è molto umano. Ma se Dio si è fatto uomo, è l'umano che ci illumina su Dio, no? Dicevo, non siamo andati alla chiesa delle origini, ha scoperto Maria nella misura in cui ha scoperto Gesù. Allora, non ad Jesum, come solitamente diciamo per Maria, ma ad Mariam per Jesus. E allora, anche per Gesù, vi ho detto prima, è la stessa cosa. Non dire Gesù è come Dio, ma se vogliamo intuire qualcosa di Dio che si è incarnato, dobbiamo andare a vedere che cosa ha pensato e come si è comportato Gesù. Quindi non ad Deum per Cristo, ma ad Cristo per Deum in qualche modo. Ma penso che la sofferenza lì della croce, se Gesù aveva due nature, con quella umana non poteva sapere, con quella divina sapeva cosa andava. Discussioni teologiche, filosofiche, tutto il discorso sul mistero di Cristo impostato in termini di natura e di persone, sono approcci filosofici. In realtà si tratta di un mistero unico che non è dato pensare, ecco. Lo accettiamo nella fede, come d'altronde è un mistero per noi. Se è vero che noi in Cristo siamo figli di Dio, ma chi se ne accorge? Come fate a dirlo? Toccatevi pure la carne, la carne non è figlia di Dio, dovete raggiungere lo Spirito per essere figli di Dio. Ma no, carne, ossa, tutto quel che siamo figli di Dio. Ma Gesù non era mica diverso, e noi siamo mica diversi da Lui come figli di Dio, no? Perché il figlio di Dio, abbiamo detto una volta nella Bibbia, significa che uno è talmente simile a Dio, al Padre, no? Da assomigliare, perché il figlio per principio è colui che assomiglia al Padre, anzi è la fotografia del Padre, no? In tempi antichi poi ancora di più c'era questa, no? Le genealogie rispondevano a questo bisogno di dire tale, la carta d'identità era figlio di. Allora, il figlio non era solo perché era generato, ma perché poi prendeva la mentalità, il mestiere del padre. Anche nella nostra civiltà, fino a 50 anni fa, quasi tutti i figli seguivano la professione del padre, il mestiere del padre, no? Poi figli non si nasce, si diventa, biblicamente parlando, perché sì, si nasce fisicamente come figlio di una persona, ma poi che cosa significa essere padre, madre, che cosa significa che quelli sono i nostri genitori e che noi siamo figli, quello lo capisce, lo fabbrichi durante tutta la vita. Allora, è durante tutta la vita che si diventa figli di Dio, non lo si è nel senso che c'è qui definito in partenza. Si diventa figli di Dio nella misura in cui, tentando di assomigliare a Dio, si diffonde, si diventa amore e si diffonde amore, perché Dio è amore. Allora, perché Gesù è figlio unico di Dio? Perché secondo l'esperienza cristiana nessuno è stato così simile al Padre nell'amore che lui può essere ritenuto unico, figlio unico, perlomeno primogenito, perché noi tutti, pur tentando di emularlo, probabilmente non riusciremo ad arrivare al suo livello. È un po' questo l'essere figli di Dio. Non mica c'entrano gli spermatozoi dello Spirito Santo, l'abbiamo già detto altre volte, no? Perché lì andiamo in ginecologia, lì andiamo da altre parti, non c'è ancora Maria. Adesso arriverà, non so, sono già le 15, possiamo allora cominciare. Diciamo ancora qualcosa allora sui comportamenti abituali nella sofferenza e vedere un po' cosa. cosa possiamo fare per correggerli eventualmente, e poi abbiamo tempo ancora a discutere. E la spiritualità cristiana, riprendiamo qualcosa di stamattina, attraverso i secoli ha formulato dei comportamenti nelle situazioni di sofferenza. Stringi stringi potremmo ridurli a due. Un comportamento è di quelli che dicono bisogna rassegnarci, rassegniamoci alla sofferenza, accettiamo la sofferenza. È inutile ribellarsi, accettiamo la sofferenza, è un qualcosa più forte di noi. La parola d'ordine è rassegnazione. Ecco, questo è uno dei grandi filoni. Il secondo filone, che sembra molto più alto di dignità, ecco, dice non solo bisogna rassegnarsi, solo bisogna accettare, ma è meglio offrire. Bisogna offrire la sofferenza, bisogna donare la sofferenza a Dio. Ecco, questi sono i due grandi filoni. Quello della rassegnazione, accettazione, e il secondo, quello dell'offerta a Dio della sofferenza. Vediamoli un momento. È tanto giusto rassegnarsi a accettare la sofferenza, in base a quello che abbiamo detto stamattina, possiamo già dire subito che non è giusto rassegnarsi e non ha nessun senso accettare la sofferenza. Bisogna, per quanto è possibile, ricettarla, vincerla, superarla. Rassegnarsi vuol dire, ecco, sottomettersi senza protesta, senza protestare. Ma se accettiamo una cosa del genere, Dio Onnipotente imporrebbe la sua volontà contro il desiderio dell'uomo. Noi dovremmo accettare perché ci è imposta. Allora Dio ci imporrebbe dal di fuori. Ribellarsi, sentiamo sempre dire, abbiamo sentito dire, che era peccato grave. Se non fosse, se così fosse, meglio, non sarebbe invece più giusto ribellarsi, perché saremmo di fronte ad un potere oppressivo di Dio? I vostri figli, se voi vi comportaste così, non farebbero bene a ribellarsi? O dovrebbero accettare se gli imponete della sofferenza? Difendiamo a spada tratta i diritti dell'uomo, e Dio non dovrebbe rispettare questi diritti dell'uomo a ribellarsi contro il suo potere dispotico di mandarci la sofferenza? Se fosse vero quel tipo di ragionamento, di dover rassegnarsi e accettare la sofferenza, saremmo delle vittime che danno il loro assenso senza rivoltarsi alla tortura del carnefice, perché in questo caso Dio sarebbe soprattutto un carnefice, non mi pare. Se poi voleste rivestire tutto questo di fede, ecco, sarebbe meno da condannare il vostro comportamento, perché voi dite che è un comportamento di fede, sarebbe ugualmente da condannare, perché questo non può essere la vera fede. Allora, non possiamo porci in questa prospettiva del rassegnarsi o accettare la sofferenza come se ce la mandasse Dio, perché Gesù ci ha insegnato che Dio non manda la sofferenza. Se così fosse, avremmo i diritti di ribellarci a Dio come ci ribelliamo a qualsiasi dittatore o tiranno della storia. Ecco, vieni pure se vuoi venire. Guarda che abbiamo aspettato fino alle 3 pensando espressamente a te. Poi abbiamo detto permettiamo di cominciare. Ma abbiamo appena cominciato. Secondo, offrire a Dio la sofferenza. Questo sembra più nobile. Vista abbiamo detto, ma ragioniamo un momento. Il mio sforzo è sempre quello di ragionare per conto mio, di aiutare, offrire ad altri spunti di ragionamento. Ragioniamoci un momento su vi viene qualche volta per caso in mente di offrire la sofferenza a qualche altro, di offrire la sofferenza al padre, alla madre, ai figli, al fidanzato, ecco, ad un amico, ma neppure ad un nemico si offre, viene in mente di offrire la sofferenza, come si offre un mazzo di fiori e un pacchetto di caramelle, e gliela vorremmo offrire a Dio. Ecco perché a Dio sì e ai nostri amici no. È un gesto che non ha senso, offrire a Dio la sofferenza. Anche se Dio lo prenderà per buono, questo è un altro discorso, perché Dio prende tutto per buono, che se non prendesse per buono tutto quello che facciamo, chissà dove andremo a finire. Quello è un altro. Che Dio accetta e dica a te che è bravo quello che mi offre la sua sofferenza, è un'altra faccenda. Ma che sia furbo da parte nostra, quando sappiamo che Dio non è causa di questo, che la sofferenza non la vuole, continuare ad offrirgliela e dargli dei pesci in faccia, non mi sembra. Dio sarebbe contento della sofferenza umana, ma per quale motivo sarebbe contento? Perché ne ha bisogno. Ha bisogno della sofferenza umana per salvare l'umanità, per salvare l'uomo, per esempio per effettuare la redenzione. La salvezza dell'umanità avrebbe bisogno della sofferenza dell'uomo, ma allora vuol dire che è incapace di salvarlo se deve aggiungere che ha bisogno della nostra sofferenza. Che Dio è? Allora la sofferenza non è, la salvezza non viene più da Dio soltanto, la salvezza non è più totalmente gratuita, l'abbiamo pagata a caro prezzo anche noi con la sofferenza. Vedete che ci mettiamo in un cumulo di domande che non possono avere risposta. Ecco, se la salvezza è gratuita, perché la salvezza è Dio stesso che si dona a noi, come potete comprare questo? Questo avviene soltanto se Lui gratuitamente. Ecco, la vita ai vostri figli, a noi come figli, non abbiamo potuto comperarla, l'abbiamo ricevuta in dono. Per di più Dio realizzerebbe il supremo bene della salvezza barattandolo contro un male, perché la croce fino a prova contraria è sempre un male, metteteci pure il velluto sopra, ma è sempre un male la croce. E allora Dio realizzerebbe la salvezza, supremo bene, attraverso un male, attraverso la croce. Mi pare tanto che pensare questo di Dio è più una bestemmia che un atto di fede. Non mi pare. Talora sentiamo anche esortare chi soffre perché offra a Dio le proprie sofferenze per coloro che non offrono le loro. Torniamo al pensiero che avevamo già esaminato. Per coloro che non offrono nulla, per coloro che non credono, per coloro che non hanno fede, tu che sei così buono, offri la tua sofferenza a Dio per questo, così Dio prenderà un po' da te e lo metterà nelle tasche degli altri. Ecco, saremmo ancora in presenza di un Dio che ha bisogno che qualcuno soffra per consentire ad un gesto in favore di un altro, di un Dio che prende gusto ad uno strano processo di sostituzione di persone. Il Dio di Gesù, abbiamo visto, è diverso. Siamo rimandati a dar ragione a Gesù per tutto quello che ci ha detto nel Vangelo e a vedere che cosa possiamo fare per affrontare il problema della sofferenza e del dolore in modo più giusto e più profondo, perché ecco di un mistero si tratta, come di fronte a tutti i misteri balbettiamo qualche cosa e annaspiamo in tentativi. per noi e per gli altri si tratta di lasciar cadere e di correggere quei punti di vista che sono inconciliabili con l'insegnamento di Gesù. Questo è un dovere, convertirci, il dovere della conversione, nel senso di cui parlavamo prima, cambiare mentalità. Allora, lasciar cadere per noi e aiutare gli altri a farlo, lasciar cadere e correggere quei punti di vista che sono inconciliabili con l'insegnamento di Gesù. Con delicatezza e con amore, senza entrare in contraddittorio, senza entrare in polemica, ci mancherebbe, con gli ammalati che assistiamo, o in dissidio con loro, aiutarli tuttavia, ripeto, con delicatezza e profondo amore, aiutarli ad un incontro nuovo con Dio, a un modo nuovo di incontrarsi con Dio, senza colpevolizzarli più del necessario per le idee che giudichiamo da superare, anzi colpevolizzano mai gli altri per le idee che devono eventualmente superare. Si prende atto che nella vita, ecco, abbiamo avuto tutti degli itinerari che magari a un certo periodo capiamo che non sono stati giusti come o veri, come adesso pensiamo che possano riformularsi, e basta, non c'è il caso di dire disgraziato nessuno, anzi, di dire piuttosto, l'esperienza che abbiamo fatto, il versante su cui abbiamo vissuto prima del concilio, le sofferenze che abbiamo dovuto sopportare, le emarginazioni, sono quelle che ci aiutano a capire meglio la gioia di essere arrivati a questa tappa e di poter vivere quel che sei. No? Ecco, come sa Zelletta sulla risurrezione di Lazzaro. Lazzaro incontra un amico che era da tanto tempo che non si vedeva, e quell'amico gli dice: oh Lazzaro, che piacere di vederti, come stai? Lazzaro gli risponde: cioè, sta zitto, sono vivo per miracolo. È un miracolo essere vivi, non può essere. Ma anche lì, riguardo a Lazzaro, come mai non ha più parlato? Lazzaro si è mangiato, si è bevuto, è finito lì. Sarebbe bello fare un incontro, per esempio, su Lazzaro, su come cercare di intendere il messaggio che viene dal capitolo. Era solo per far vedere la potenza del Signore che è stato risuscitato, ma poi non ha mangiato, non ha bevuto. Perché dice, 7 giorni dopo si sono trovati a tavola con Lazzaro. Ma subito Gesù dice: lasciatelo andare, e non si dice più niente di Lazzaro. E vuol dire: ma no, lasciate che i morti siano morti, sono già in Dio, lasciateli ecco, nel loro nuovo stato di vita. Ecco. Però voi, se vi mettete in relazione diversa con il Dio della vita, fra 7 giorni o sempre li sentirete presenti alla vostra mensa. Sono andati lontano, sono qui come Dio è qui alla nostra mensa. Tanto era radicata agli inizi questa convinzione che, come forse sapete, alla festa, alle mense, quando facevano la cena per il morto, lasciavano una sedia vuota, per dire, era la cattedra, posto dove si sedeva, per dire non c'è mai qui, non c'è più nella sagoma di prima, nella ciccia di prima, noi crediamo che sia presente qui. Di lì è nata la festa della cattedra di San Pietro. La cattedra di San Pietro, guardate come cambiano le cose nei secoli. Quando noi diciamo festa della cattedra di San Pietro, pensiamo a quella che è là in San Pietro, dove va a sedere il Summus Pontifex, ecco, dove va là la cattedra di San Pietro. No, non è quella. La festa della carta di San Pietro era che i fratelli cristiani della prima ora, dopo che Pietro era morto, ecco, erano convinti che era vivo anche lui, perché partecipava alla risurrezione di Cristo, e allora gli lasciavano la sedia vuota come se fosse lì presente come prima. Altro che cattedra di San Pietro, come la intendiamo noi adesso, riferendoci al Magistero, perché noi cattedra vuol dire Magistero. Che poi Pietro fosse anche responsabile della Chiesa delle origini, va bene, ma è ancora un altro problema. Allora, sono vivo per miracolo, ecco. Dicevo, allora, con delicatezza e profondo amore, questo lo possiamo fare, anche in base alla cultura che abbiamo e in base alle capacità del sofferente, perché se è un povero contadino, se è uno che non allora sapremo che abbiamo a fare con una persona di non alta cultura, se ci rapportiamo invece a un collega, se ci rapportiamo. Immagini quando mi ho incontrato a Roma a dicembre scorso, mi ha detto: sai, sono reduce dall'aver accompagnato ad altro mondo. Ho un caro confratello, ecco, ma c'è stata una cosa bellissima. Per lui averci vicino, per me poterlo seguire. Con delicatezza e profondo amore. Se leggiamo con loro, per esempio, qualche brano del Vangelo, cercheremo di scegliere delle pagine evangeliche adatte a cogliere il messaggio dell'Evangelo come lieta notizia, no, andremo certo a leggergli la pagina triste, gli leggeremo una pagina dove si dà la lieta notizia dell'Evangelo, della presenza di Dio in mezzo a noi attraverso la presenza stessa di Cristo. Ecco, se leggiamo la risurrezione di Lazzaro è per dire che non dobbiamo affrontare la morte anche con serenità, perché io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me vive. Morte non sembra avere in questo discorso, avere ragione d'essere, perché come quasi non ci fosse. È certo che è una fede grossa, ma che cosa volete? D'altronde l'unico argomento per l'uomo, prescindendo dalla fede, se ce l'ha o non ce l'ha, ma anche per il credente, l'unico grande argomento per la sopravvivenza, per la vita eterna, secondo me, è questo. Il Dio, e certamente se c'è il Dio della vita e dell'amore. Noi, se siamo al mondo, è per amore. Perché i nostri genitori, bene o male, ci volessero o non ci volessero, ci hanno messi al mondo attraverso un atto d'amore. Perché a quei tempi, almeno, non c'era ancora tutta la faccenda della... Noi siamo venuti al mondo per amore, come frutto dell'amore di Dio, attraverso l'amore dei nostri genitori. Noi non c'eravamo, non sapevamo niente di che cos'era la vita, non avevamo nessun diritto e abbiamo avuto questa vita. Date a contare questo a qualcuno che gli avrebbero detto o ci avrebbero detto: è impossibile, dal niente non può venire fuori qualcosa, uno spermatozoo, cosa volete che venga fuori? Guardate quante cose ci sono in giro, eppure. Allora, se è stato possibile questo, perché possiamo impedire a Dio che sia possibile a Lui di darci un'altra vita in prosecuzione di questa, che continua questa, che sarà certamente diversa da questa, perché non avremo più il corpo, eccetera? Chi può impedirlo? E allora, se abbiamo fede, diciamo, nessuno glielo può impedire. Io credo che sarà quello che Lui farà. A questo punto noi ci affidiamo a Dio, noi non mettiamo becco nella Trinità più di tanto, non andiamo a fare i santi o i diavoli, quelli ci penserà Lui come decidere per i santi dell'altra vita o i dannati. Ecco, dannato non ce ne sarà nessuno, state tranquillo, perché la Chiesa, nonostante che le abbia bruciato gli eretici in piazza e li abbia mandati all'inferno da vivi, da morto non c'è mai sentito di mandare nessuno all'inferno, anzi ha detto vi brucio perché così vi purifico per il paradiso. Allora non c'è, nessun elenco ufficiale di dannato. Guardate che lo Spirito Santo l'ha protetta la Chiesa, perché è arrivata a tanto a non fare nessun elenco ufficiale di dannati, neppure quelli che ha dannato lei. Ufficiosamente qualche elenco, ufficiosamente non so in Vaticano cosa penseranno, li dovrebbero mandare all'inferno prima di tutto tanti papi anche, ufficialmente non c'è un elenco. Mi dispiace che ci sia quello dei santi, perché ha istituito la mafia anche per la santità. Mi dispiace, non perché non creda nei santi, ma perché mi dispiace questo dare adito a questa spiritualità, a questa religione dei meriti dei santi. Io lascerei a Dio tutto l'aldilà. Ecco, difatti dei morti dall'aldilà non è mai venuto nessuno, non è mai tornato nessuno. Allora lasciamo il mondo dell'aldilà a Dio e accontentiamoci di riuscire a fare qualche cosa in questo mondo, che è già fin troppo difficile quello che dobbiamo fare. Almeno io la penso così. Poi tutto quello che dice dei fatti, se parliamo di gente profana, ma sono molti a dire così. Cioè, io poi faccio il nome dei fatti che sono stati santi, perché i fatti sono i primi ad andare nell'inferno, perché sanno come la legge della trascura. C'è un'altra cosa, chi fa le leggi, c'era nei nostri libri di morale, di diritto, quando studiavamo in seminario, che chi fa la legge è sempre superiore alla legge, non è tenuto all'osservanza della legge. E il Papa può ordinare a tutti di essere santi e lui essere tranquillamente un delinquente, andrà bene lo stesso. I nostri politici hanno studiato queste morale. Queste leggi, non lo sapete che è così nel diritto? Chi fa le leggi, in tempi andati era così, il legislatore impone le leggi agli altri, ma chi impone le leggi sul re, mica era obbligato ad osservare le leggi. Sì, ecco, questo direi che è una delle prime indicazioni per il confronto con gli ammalati, con i sofferenti. Cogliere se leggiamo insieme qualche pagina biblica, qualche pagina appunto che volga al positivo, che ti rimandi all'Evangelo come lieta notizia di salvezza. Non andrete a leggere una pagina che parla del giudizio di Dio contro i peccatori, perché visto che siamo peccatori tutti, in quel momento la morte o il pericolo, la paura della morte ci rende tutti più. Se formuliamo qualche preghiera insieme, dobbiamo evitare, escludere qualsiasi frase che abbiamo giudicata inopportuna, offensiva del Dio amore o che colpevolizza il malato. E questo nelle preghiere, se facciamo una preghiera con l'ammalato, no? Perché penso che l'ammalato senta molto il bisogno della preghiera. Allora pregare insieme un momento, se siamo amici, che è molto, un momento molto prezioso, molto intimo, e però ecco, stiamo attenti al tipo di preghiera che facciamo, a che intenzioni proponiamo. Escludiamo il pensiero di un Dio che si sente offeso per i nostri peccati, prendiamo, ecco, formuliamo qualche preghiera che insista sull'amore, sulla misericordia di Dio, e non mai colpevolizzare il malato, il moribondo. Rifiutiamo però, ecco, in maniera garbata, in maniera gentile, ma direi decisa, rifiutiamo di avvalorare di dire sì a qualsiasi affermazione dei malati o dei sofferenti che non sia secondo lo spirito evangelico. Non faremmo loro un bel servizio. Ecco, se ci prospettano visioni del genere, ecco, allora subentra quella delicatezza e quell'amore di cui dicevamo e cerchiamo di invece correggere, di manovra, pensare invece. Ciana, conoscete parecchio, c'ha una zia, suora di San Giuseppe, che ha 90 e più anni. Ecco, tu sai chi è perché siete parenti. E allora lei va immancabilmente a trovarla due settimane e fa questa catechese, gli ha proposto, ma questa donna è terribilmente aperta, accoglie, dice che fortunata che sei a sentire queste cose, oh come bello, dimmi cosa hanno detto da Sisi, cosa ha detto Stefano, cosa hai letto in quel libro, però dice che è sempre preoccupata, dice ma Dio Don Giorgio, Dio gli altri che preghino per me perché chissà se Dio mi accoglie, chissà se sono preparata, chissà qui, ecco, perché ritorna sempre questo tormento a cui siamo stati educati, ecco, e anche quando uno è aperto risorge questo. E invece insieme c'è nella stessa camera un'altra sorella che è tutta presa dalla paura di un Dio che è lì solo per aspetta al varco e quindi ossessionata dalla paura di incontrare il Dio giudice. Vedete com'è. Ecco, dicevo, rifiutiamo in maniera garbata e gentile, ma detto